America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. At this moment, with a growing economy, shrinking deficits, bustling industry, booming energy production, we have risen from recession freer to write our own future than any other nation on earth. Barack Obama al discorso sullo stato dell'Unione, lo avete sentito, ha promesso di investire nel manifatturiero. Perché? Beh, perché il manifatturiero ha perso 1,5 milioni di posti di lavoro con la crisi del 2007-2009. Ma che è successo? Beh, con gli investimenti, con dei cambiamenti delle regole, con l'incoraggiamento per il cosiddetto reshoring, con una politica che ha puntato per esempio su Detroit, l'amministrazione Obama è riuscita a rivitalizzare il settore. Risultato? 700.000 nuovi occupati. Obama voleva farne 1 milione, beh, ancora non c'è riuscito, però il settore si rivitalizza e ho una notizia che conferma questo ritorno del manifatturiero, una notizia che ha a che fare con l'Italia. Ecco, la notizia qual è? La notizia è che la North American Forge Masters di Newcastle in Pennsylvania, che è un produttore d'acciaio, di ferro, insomma, ricordate come a un certo punto le acciaierie sembravano morire in America? Ecco, invece si stanno riprendendo e questa acciaieria cosa ha fatto? Ha ordinato la più grande pressa del mondo. E qual è la cosa interessante, la notizia nella notizia? Che la più grande pressa del mondo è stata costruita in Italia. E io ho con me ai microfoni di America 24 Alessandro Tomada. Alessandro Tomada è uno spedizioniere di grandi impianti industriali che ha una sua azienda che poi si è fusa con la Savino del Bene, che opera appunto nel settore dei grandi trasporti, ed è qui a New York e ha passato le sue giornate al porto di Newark, che è dall'altra parte del fiume Hudson, per scaricare e trasportare questa pressa. Buongiorno Tomada. Buongiorno. Allora, dunque, lei, insomma, è una cosa affascinante, sembra un film. È affascinante e anche piuttosto avventurosa, perché comprende diversi aspetti delle spedizioni, della logistica, delle organizzazioni americane, delle organizzazioni dei porti, che sono a sé stanti. Non ci sono casi precedenti in questo porto, in quanto questo porto non riceve usualmente carichi industriali di questo tipo. È stato scelto questo porto per la vicinanza dei binari alla banchina dove verrà scaricata questa pressa. E quindi la nave, ma lei questa pressa l'ha trasportata dall'Italia dove è stata costruita? Da chi l'ha costruita? L'ha costruita da Danieli di Butrio, una società specializzata in macchine per l'industria, dislocata in diverse parti del mondo. Gli Stati Uniti sono comunque il mercato su cui stanno puntando molto nel prossimo futuro. E dunque questa è una storia tipica e bella, perché insomma le cose da noi continuano a non andare molto bene. Vi racconto spesso di quanto l'economia americana invece stia tirando, ed ecco un classico esempio di come l'economia americana può fare da traino per quelle che sono le nostre eccellenze, perché le nostre eccellenze le abbiamo e dobbiamo sfruttarle, dobbiamo difenderle, dobbiamo mantenerle, non dobbiamo perderle. Dunque questa pressa è di 2.500 tonnellate, o sbaglio? Quando sarà assemblata il peso della pressa è 2.500 tonnellate. E in Italia come l'avete portata? Cioè c'è un trasporto su gomma? Sono stati effettuati dei trasporti cosiddetti eccezionali su strada, porto particolare in quanto le strade italiane non permettono la transitabilità su tutti i porti. L'avventura nell'avventura è stata scegliere un porto fluviale. Le navi di per questo tipo di trasporto sono molto limitate in quanto la portata doveva essere notevole. Il porto fluviale che è stato scelto si chiama Porto Nogaro, è un antico porto. Ci sono diverse limitazioni di navigazione e di pescaggio in questo porto. E la navigazione è andata bene, tutto a posto? La navigazione è stata molto complicata, in quanto proprio in quel periodo ci sono state mareggiate e mari molto molto complicati, tant'è che la nave, che di solito impiega 17-20 giorni al massimo per fare la traversata da Porto Nogaro a Port Newark, ha impiegato oltre 30 giorni e ha dovuto riparare quasi una settimana in un porto del sud del Portogallo. Noi non ero a bordo, io ho assistito all'imbarco, ho assistito allo sbarco. Ecco, ma com'è questo porto? Com'è questo porto di Newark? Perché lei passa le giornate nel porto, il porto di New... manovre, ci sono le persone, gli ingegneri. Infatti ci sono molti ingegneri, un porto molto, non è un porto adatto per questo tipo di lavoro, perché è un porto portacontenitori. Non ci sono gru idonee per fare questo scarico, è stato scelto comunque questo porto in quanto i binari sono vicinissimi alla banchina per scaricare questi colli pesanti, nonostante la forza delle gru non si può sbracciare, quindi è stato un obbligo scegliere questo porto, anche perché nonostante la vicinanza di Newcastle a porti dei grandi laghi, i grandi laghi durante l'inverno sono chiusi alla navigazione. Qual è la storia della storia? E che il signor Tomada, che vive così questa vita d'azione tra i porti di Newark, le navi, le tempeste marine, in realtà a un certo punto si era comprato un biglietto di solo andata per venire a New York molti anni fa, dove è rimasto e ha vissuto molti anni. Quanti anni ha vissuto a New York? In totale oltre 20. Oltre 20 anni. Ed era venuto a fare che cosa con questo biglietto di solo andata? A studiare filosofia a Columbia University. Quindi lei è arrivato a New York a studiare filosofia, ha fatto un master, ha seguito dei corsi, immagino, di PhD, e poi lei a un certo punto cambia vita e da questi suoi studi di filosofia, molto, molto complessi ovviamente, cambia vita. È stato contento di questo cambiamento di vita? Mi sentivo obbligato a cercare un'altra avventura da dove ero partito, ossia l'Italia. Sono ritornato in Italia. Ho trovato un mondo completamente diverso da quello che avevo lasciato, non solamente per l'esperienza di molti, molti anni negli Stati Uniti, però essendo partito da giovane e ritornato maturo, mi sono trovato a sperimentare verità che non conoscevo prima. Era come se avessi ritrovato cose che conoscevo ma che non sapevo che esistessero ancora. Quindi un balzo nell'insieme positivo e favorevole. Ecco, se ci deve dare una fotografia dell'Italia di oggi, lei conosce l'America, va avanti e indietro, gira per il mondo, cosa siamo noi italiani in questa economia globale? Ancora smarriti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho ancora con me in studio Alessandro Tomada, filosofo, imprenditore, navigatore, trasportatore, avventuriero. Allora, perché non ce la dice lei la canzone del giorno? Qual è la canzone che sceglie oggi, la sua canzone favorita? Riders on the Storm, dei Doors. Forse c'è un po' di deformazione professionale, i cavalieri nella tempesta. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.